Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 26 gennaio 2015, la Cina introduce la tassa sulle emissioni di CO2. Come annunciato 3 anni fa, il governo di Pechino ha introdotto una imposta che colpisce i maggiori emettitori di gas serra. L'imposta, che parte da 10 yuan per tonnellata di anidride carbonica, risulta particolarmente gravosa per le imprese che non si sono messe al passo con la strategia verde introdotta dall'amministrazione cinese, anche perché aumenterà gradualmente nel tempo a seconda dei livelli di emissione. La Cina si è impegnata a ridurre le emissioni di carbonio per unità di produzione economica del 40-45% entro il 2020 rispetto al livello del 2005, accettando anche di negoziare con i paesi sviluppati un accordo per ridurre le emissioni assolute a partire dal 2020. Fin qui la notizia del 26 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. La svolta verde del governo cinese è infatti ormai una realtà, come spiega lo scienziato Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Club Kyoto. È una misura che ha un significato prevalentemente interno, nel senso che è un messaggio alla propria industria altamente inquinanti, che l'attenzione alla CO2 non è solamente un tema di carattere ambientale, etico in senso lato, ma strettamente economico, anche se la proposta che si fa per adesso è di una carbon tax limitata, però il segnale è molto significativo. L'altro elemento è che si sposa molto bene questa indicazione con la politica degli ultimi anni della Cina di sviluppare fortemente tutte le industrie legate alla green economy, in particolare quella delle fonti rinnovabili. L'anno scorso 8 delle 10 più grandi compagnie fotovoltaiche del mondo in termini di produzione erano cinesi. Per quanto riguarda l'eolico, la Cina ha la più grande industria di aerogeneratori, cioè la Cina ponendo su un terreno, quello della green economy, in posizione di forza. E questo spiega anche la maggiore flessibilità che ha dimostrato per esempio Durban nei confronti di un accordo sul clima, perché un accordo sul clima consente di creare un grande mercato delle tecnologie verdi nelle quali la Cina pensa di poter giocare bene le sue carte. È tutto per questa edizione del Gazzettino del 2015, condotta da Anna-Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.